tutto per, lo dico solo rapidamente per Young, che la volta scorsa non c'era. Allora, la volta scorsa abbiamo guardato i libri, alcuni libri illustrati del Cinquecento, soprattutto i libri d'anatomia e i libri, l'illustrazione scientifica, quindi i libri di anatomia artistica come quello di Dürer, i quattro libri delle proporzioni umane, e poi i libri veri e propri di illustrazione medica. I quattro libri delle proporzioni umane sono stati fatti all'inizio del Cinquecento, dal 1512 fino al 1523, e poi dopo sono stati pubblicati per la prima volta nel 1528 e molte altre volte tradotti anche in italiano e in molte altre edizioni nel corso del Cinquecento. È una serie di xilografie che riguardano lo studio fatto da Dürer delle proporzioni, dei tipi umani anche, uno studio geometrico sulle possibili rapporti proporzionali dei principali tipi umani, quindi il bambino, il ragazzo, l'uomo adulto, l'uomo maturo e lo stesso anche per la donna, in diverse sequenze, e anche alla fine la possibilità di costruire gli scorci, le viste in movimento, diciamo, di queste figure. Poi ancora cominciano negli stessi anni, alla metà del Cinquecento, gli studi sulla anatomia dal punto di vista medico, mentre le xilografie disegnate, non intagliate, ma disegnate da Dürer, sono soprattutto destinate agli artisti, cominciano anche i libri ad apparire, dei libri illustrati che studiano l'anatomia del corpo umano dal punto di vista proprio della struttura, dal punto di vista anatomico, nel senso medico, dell'analisi della struttura del corpo umano. Il più interessante, anche uno dei più belli di qualità come illustrazioni, è appunto il De Humani Corporis Fabrica, cioè la struttura, la fabbrica del corpo umano, perché sono libri scritti in latino, è fatto da Andreas Vesele, questo medico fiammingo che noi in italiano conosciamo come Andrea Vesalio. Sono dei disegni fatti da Jan Stefan van Kalkar, un altro artista fiammingo, che lavora, fa alcune xilografie, mentre la parte più importante, la migliore, diciamo così, è quella l'edizione forse più importante, quella del 1565, quella veneziana del 1568, ha una serie di tavole a bulino, che sono queste, fatte da Krieger o Kruger, l'editore e lo stampatore di questo libro, su disegni che risentono molto, se guardate anche nel paesaggio, la qualità. Sono molto veneti questi paesaggi che sono sullo sfondo, certi paesaggi di Tiziano, quindi ha un gusto molto tizianesco questo, e i nudi anatomici sono in posa come se fossero, i nudi medici, diciamo così, sono in posa come se fossero nudi delle sculture, praticamente dei modelli per degli artisti, però invece lo studio sui muscoli, sulla struttura del corpo umano è molto più dal punto di vista del medico. Quindi sono stampe, bulini di altissima qualità, e come si vede qui sono stampati separatamente dalle pagine di descrizione. C'è una pagina di testo e una pagina di immagini, perché abbiamo sempre detto, a differenza della xilografia, le calcografie in cavo, cioè le i bulini e l'equaforte non si possono stampare insieme alle pagine tipografiche. Juan Valverde, medico spagnolo, segue la strada aperta da Vesalio e fa una serie di immagini, questa in particolare è copiata e ricavata da quella di Vesalio, anatomia del corpo umano. Questo è Caspar Becerra, l'incisore che ha lavorato per Valverde, che era appunto un medico. La fisionomica, abbiamo parlato, cioè questo studio simile a quello della medicina in quell'epoca, cioè la convinzione che l'atteggiamento, la struttura del viso, del corpo umano, ricordando quella di alcuni animali, ricorda anche le caratteristiche psicologiche di un personaggio. Quindi questo è Giulio Cesare, un ritratto di Giulio Cesare, l'imperatore, primo sovrano, primo principe dell'impero romano, che il cui profilo ricorda approssimativamente quello di un'aquila. Quindi l'aquila, simbolo del potere imperiale. Poi ancora le edizioni degli erbari, quindi le edizioni naturalistiche, che hanno la loro grande compendio, la loro grande antologia in una opera di Ulisse Aldrovandi, in particolare in diverse opere di Ulisse Aldrovandi, che era un botanico, uno zoologo, ha fatto nell'Ateneo di Bologna una enorme collezione di pietre, minerali, piante, animali conservati. Quindi è uno dei primi naturalisti, diciamo così, è uno dei primi che comincia a studiare sistematicamente i fenomeni naturali e raccoglie moltissimo materiale che fa disegnare e incidere in xilografia, e i suoi allievi che erediteranno la cattedra appunto di e il museo che lui aveva raccolto di storia naturale a Bologna pubblicheranno via via in diversi volumi, tra cui uno, il più famoso e il più importante, è la Monstruorum Historia, cioè Storia dei mostri, che la volta scorsa abbiamo visto e che è fatto tutto illustrato a xilografie con materiali che aveva raccolto Aldrovandi. Questo PowerPoint è da finire come immagini e poi lo vedremo, ve lo darò completo per fortuna. Le carte geografiche, ecco, sono un altro campo di indagine, un altro campo dove illustrazione e editoria hanno una fortuna, un connubio felicissimo, da partire dal 500, soprattutto poi nel 600 e nel 700, ci sono anche su questo poi faremo, metterò degli altri esempi. C'è questo libro di un po' di anni fa, Arte del descrivere, di Svetlana Alpers, che riguarda soprattutto la pittura di paesaggio olandese, e secondo la Alpers l'introduzione di nuovi strumenti come il cannocchiale, come il microscopio, come la lente di ingrandimento, gli occhiali hanno cominciato a essere diffusi verso la fine del 300, nel 400, e anche le lenti quindi per ingrandire, e si pensa che i pittori fiamminghi come Jan van Eyck, i grandi pittori del 400 fiammingo, con questa loro cura per il particolare, per descrivere l'oggetto con una grandissima finezza, sono probabilmente hanno ottenuto questi risultati probabilmente grazie all'uso di occhiali o di lenti di ingrandimento. Poi, all'inizio del 600, come voi sapete sicuramente, si perfeziona l'uso del cannocchiale. Nei primissimi anni del 600 Galileo lo comincia a usare per uso astronomico, rivoluzionando le idee che si avevano sul cielo fino ad allora, confermando le teorie di Copernico, che era vissuto nel secolo prima, Niccolò Copernico, e che aveva teorizzato il fatto che non fosse il Sole al centro, la Terra al centro dell'universo, come così istintivamente potrebbe sembrare, ma in realtà fosse il Sole. Galileo, con queste sue osservazioni, cominciò a osservare appunto la Luna, Marte, i pianeti come Marte, Giove, Saturno, conferma le teorie di Copernico. Il cannocchiale rivoluziona l'astronomia, ma allo stesso tempo, anche se non ci sembra, perché poi da Galileo in poi nasce l'astronomia moderna, e anche Galileo è come Ulisse Aldrovandi, cioè uno scienziato moderno, uno che tende a osservare il fenomeno, a fare e a ripetere il fenomeno, perché il problema della scienza, per trovare una legge, una regola, una caratteristica di qualsiasi cosa che viene studiata scientificamente, bisogna capire l'origine, il motivo del fenomeno, come si manifesta, la conseguenza. Quindi tu parli di botanica, di medicina piuttosto che di fisica, ci vuole un procedimento che sia anche ripetibile in laboratorio, che non sia una cosa fuori dell'ordinario. Per questo Aldrovandi era così interessato a definire che cos'è la natura, il fenomeno naturale, e che cos'è qualche cosa di eccezionale, il mostruoso che esce dall'esperienza naturale. E lo stesso anche Galileo. Le osservazioni che possono essere ripetute, risperimentate, create in laboratorio in qualche modo. Quindi la nascita della scienza contemporanea avviene tra la fine del Cinquecento e l'inizio del Seicento. Però l'uso del cannocchiale sarà importantissimo anche per la pittura, specialmente olandese del Seicento, e anche per la cartografia. A un certo punto, dice l'Alpers, vedutisti e cartografi, viaggiatori, marinai e disegnatori di paesaggio a volte corrispondono, sono vicini, si sovrappongono, nel senso che i marinai, viaggiando, scoprendo isole nuove, ne fanno anche dei disegni, fanno proprio un profilo del paesaggio di queste isole, anche per poterle riconoscere, perché gli strumenti di navigazione non erano precisi come adesso, dove con un GPS o anche con un telefonino tu puoi sempre, anche con questo computer volendo collegato, puoi sempre sapere esattamente la tua posizione e dove sei sulla mappa geografica. Quindi i viaggi erano molto sempre delle cose, delle esperienze con molte incognite. E via via che i navigatori si spingevano in zone nuove, anche i mercanti, non bisognava essere per forza degli esploratori, disegnavano coste, paesi, paesaggi che poi venivano trasformati nelle carte geografiche o anche nei libri, proprio dei veri e propri libri con carte, piani, paesaggi per aiutare i viaggiatori. E quindi c'è questa, soprattutto nel Seicento, questa doppio canale del cartografo e del vedutista. E soprattutto, ecco, ci sono delle grandi occasioni di pubblicazione di grandi compendi, di grandi antologie di carte geografiche. La più antica, la più famosa, ad esempio, è il Teatrum Orbis Terrarum, che vorrebbe dire appunto il teatro del mondo, Abraham Ortels, che la stampa ad Anversa dal famoso tipografo Plantin nel 1570, con 70 acqueforti di Hogenberg. Quindi il Teatrum è il primo vero e proprio Atlante moderno, dal 1570 al 1592, dove si vede qui effettivamente che Ortels cerca di restituire dei paesaggi, delle piccole città, le montagne, i fiumi, nella carta geografica una certa coerenza paesaggistica. In più con elementi così di narrazione come questi, le navi, le barche in mezzo al mare, c'è un tentativo, cioè la carta geografica è ancora una sorta di paesaggio in astratto. Inoltre, veri e propri carte, descrizioni, paesaggi, descrizioni di paesaggi e di città, non sono proprio carte geografiche, ma piuttosto dei paesaggi. Altro grande editore di paesaggi è Georg Braun, che collabora con l'incisore Franz Hogenberg e fa 5 volumi che si chiamano appunto Civitates Orbis Terrarum, cioè le città del mondo in italiano. E in quest'epoca, come notate, i libri non solo di filosofia, non solo di teologia, non solo di storia, ma anche quelli che dovrebbero essere libri scientifici, sono ancora tutti in latino. La lingua della cultura, la lingua internazionale della cultura è il latino. Anche Galileo, nello scrivere il suo libro nel 1612 sulle osservazioni che ha fatto astronomiche, scriverà il Nuncius Sidereus, cioè il messaggero del cielo. È un dialogo simile ai dialoghi filosofici di Platone, antichi, tra un nuovo, uno scienziato, un suo alter ego e un difensore della vecchia scienza aristotelica. Fa un'opera scientifica d'astronomia, la prima opera moderna d'astronomia, però la deve scrivere in latino. Quindi queste opere sono tutte scritte in latino. Importante, ad esempio, questo Civitates Orbis Terrarum è una grande antologia di paesaggi. Questi sono degli esempi. Questo non è colorato, acquerellato. Molto spesso se ne trovano abbastanza, perché è un libro che ha avuto una grande fortuna. Certe volte nei negozi di stampe, ancora adesso, si trovano dei fogli sciolti venduti come paesaggi. Probabilmente se andate anche nel negozio qui di fronte ve lo tira fuori una edizione, perché poi è stato anche ripubblicato diverse volte, e quindi molti di questi volumi sono stati sciolti e le stampe sono state poi vendute separatamente, anche acquerellate. Qui abbiamo Burgos, una città della Spagna, e San Sebastiano, un'altra città della Spagna settentrionale, affacciato sull'Oceano Atlantico. Quindi qui siamo veramente a una via di mezzo tra la carta geografica, la descrizione topografica di un posto che è molto precisa, e il paesaggio vero e proprio. Anzi, qui siamo all'inizio, poi nel 600, nel secolo successivo, da queste prime esperienze anche tipografiche di libro illustrato partiranno poi i paesaggisti olandesi, tutti i grandi paesaggisti del 600 olandese, che imposteranno le loro opere in modo simile, e poi anche i vedutisti, che dall'Olanda alla fine del 600 verranno in Italia. Quindi è il paesaggismo olandese e la veduta italiana, la veduta veneziana, il vedutismo veneziano, hanno uno dei loro punti d'origine, quindi il loro punto d'origine più importante e più diretto, proprio in questo tipo di volumi, di pubblicazioni geografiche, che a loro volta sono state possibili grazie all'uso del cannocchiale. Perché una vista come questa di Burgos, così precisa, con tutte le mura, le chiese, i palazzi, che ancora adesso, sia per ogni paese, insomma, alcune di queste stampe sono anche una documentazione storica importante di come erano le città, certi posti 500 e passa 550 anni fa. e non è pensabile che una cosa del genere sia potuta, sia stata realizzata senza l'uso del cannocchiale, come poi nella veduta settecentesca, specie la veduta veneziana, non è pensabile senza l'uso della camera oscura. Quindi un altro aiuto ottico, diciamo così, sicuramente. Quindi queste sono le cose, anzi vi faccio vedere, se le troviamo, alcune immagini, altre immagini di Brown e di dunque, che succede? Per forza. Questo si è bloccato, benissimo. Vabbè, quello sblocchiamo. Allora, ecco qua. Allora, vediamo un po' Brown e un po' Gamberg. Wikipedia. Poi, forza. Partiamo da qui. Scusate. Un po' meglio, un pochino meglio. Allora, Hoggenberg, Franz Hoggenberg, Ortelius, Abraham Ortelius, eccolo qua. Uno dei primi, ecco qua, la stampa, il mappamondo di Ortelius, siamo nel 1550, no? Teatrum, 70, Teatrum Orbis Terrarum di Anversa, ecco qua, per esempio, vediamo questo. Qui si vede un po' meglio, no? Questa è la Palestina. Ecco. Questa è una mappa che è stilizzata a alcune convenzioni, come tutte le carte geografiche, ma è molto, è anche panoramica, descrittiva, perché non è azimutale, cioè non è disegnata perpendicolare, ha una sorta di prospettiva, no? Quindi le città più piccole sono piccole, le città più grandi come Gerusalemme sono più grandi, ci sono i monti, ci sono i fiumi che scendono dai monti, c'è tutta una serie di le coste con queste navicelle che vanno sulle coste, c'è tutta una serie di elementi descrittivi molto particolari, per cui è una via di mezzo. E anche questa del Teatro Orbis Terrarum è una tipica, è una rappresentazione che viene, che appare tantissime volte in anche adesso dagli antiquari un po' raffinati si trovano anche queste abbastanza spesso. Questa è una vista del Belgio, cioè delle Fiamme. queste sono tutte fatte a bulino e acqua forte, in tecnica, e acquerellate naturalmente, perché ci sono quelle acquerellate e non acquerellate. Ecco, vedete qui da vicino, lui cerca di dare una coerenza con le distanze, perché non le calcola geometricamente, però ha coerenza, questa è anversa, queste zone di boschi, di foreste che adesso non ci sono più, queste spiagge di dune, i paesi più piccoli, le città più grandi, i fiumi, vedete? Cerca di dare una coerenza alla topografia, alle distanze, alle montagne, però a questa descrizione naturalistica. Poi invece, ecco, quest'ultimo ancora più, cartine più precise dell'Olanda, delle province dell'Olanda che lui ha fatto successivamente. Vediamo un po', questa è la Zelanda. Dove viene introdotto per la prima volta, qui chiaramente è il posto dove lui ha vissuto, quindi poteva avere più informazioni, più mezzi per misurare il terreno, le distanze, introduce una cosa nuova, questa, la scala delle distanze, delle miglia, cosa che magari per la Palestina, per l'Africa, per altri posti non era possibile. E questa è più moderna perché i paesini cominciano a diventare delle semplici cerchietti, quindi la parte di descrizione paesaggio è in secondo piano rispetto a quello che effettivamente sono le caratteristiche geografiche del terreno. Poi, vediamo un attimo. L'originale, ok, 1598, è una delle prime carte del Pacifico. Sì, strana, perché mentre questa parte degli Stati Uniti e quelli che saranno gli Stati Uniti, dell'America settentrionale, le Antille, l'America meridionale è abbastanza precisa, ecco, la vediamo qua, perché siamo nel 1598, sono state conquistate e colonizzate ormai da un secolo e esplorate abbastanza, almeno le coste, estesamente, e ci sono già delle città come Cartagena de las Indias, una delle città fondate dagli spagnoli. Sono state studiate anche la costa orientale del Messico, Città del Messico, la Florida, quindi queste zone sono abbastanza conosciute, perché non solo Magellano ma anche altri esploratori si sono avventurati fino a questa zona. L'idea era appunto ancora quella di Cristoforo Colombo, cioè di circumnavigare la terra da occidente, quindi arrivare alle Indie da occidente, quindi nonostante ci fosse l'America in mezzo, i viaggiatori spagnoli e portoghesi avevano continuato questo tipo di esplorazione. E invece ci sono come novità, perché sono state raggiunte per la prima volta in questi anni, la Guinea, quella che adesso è l'Indonesia, la Nuova Guinea. Strano, nel senso, come rappresentazione grafica, sembra che ci sia un angolo. Ah sì, che non è. Ah sì, non è sfera. Sì, sì, hai ragione. Sì, sì, sì. No, non è sfera. Sì, sì, sì, non è sferico. È un tentativo di riduzione da piano a sferico in questo modo. Sì, sì, sì, quello sì. E anche le proporzioni, sia le distanze che non sono in proporzione, perché ad esempio la Nuova Guinea qui è molto più grande, però ci sono alcune isole che sono già state esplorate dagli olandesi, e infatti queste diventeranno queste saranno le Filippine, diventeranno colonie olandesi tutta questa zona della cosiddetta Indonesia, no? Queste sono le Filippine, questa è la Cina continentale, e queste sono le prime rappresentazioni delle isole del Giappone, isola dell'Argento, che non so se sarà Hokkaido, se l'isola continentale. Altre cose, i confini della Tartaria, qui dove non c'erano, anche come costruita, interessante perché mette solo le cose che conoscono, questo deve essere Canton e altri paesi, altre città della Cina meridionale, dove vicino mettono il Giappone. Altri posti, tipo la Corea, tipo l'isola di Formosa, che non era ancora conosciuta, e sono state ignorate. Questa della Indonesia, quest'isola più importante, non ricordo come si chiama, che era evidentemente stata esplorata meglio dagli olandesi, è più grande, si conoscono le baie, i fiumi, le città, insomma, i villaggi. E sotto, e ad esempio, tutta l'America settentrionale, che non era ancora stata esplorata, non era conosciuta, è accuratamente nascosta da questa cartina, da questo cartiglio. Lo stesso, tutta questa zona, che non è assolutamente conosciuta, evidentemente c'erano delle notizie di una terra australe, ma non si sapeva bene cosa fosse, quindi l'Australia e l'Antartide sono puramente inventati. Vedete, Terra del Fuoco in realtà sono le isole a sud dello stretto di Beagle, questo si chiama, che credevano fosse appunto la propagine di un continente, poi in realtà è completamente diversa questa cosa, no? Vedi, qui c'è scritto una fortezza che il re Filippo II di Spagna fece costruire nell'anno 1582. Questo Valdivia è un altro, ancora adesso è una città del Cile. La storia delle carte geografiche è interessante perché si proiettano via via le conoscenze di alcuni luoghi che si vanno a concentrare. E qui si capisce, insomma, che mentre questa zona, per esempio, è più coerente come distanze, come anche immagine, è riconoscibile, qui siamo ancora in una esplorazione da un'isola all'altra, non si è capito ancora bene appunto le distanze tra la terraferma e le isole, qui tutta questa zona della Cina settentrionale, della Corea, è un deserto, i confini della Tartaria, il Tartaro, quindi c'è tutto. Qui c'è il muro, la muraglia cinese, più raccontata che vista probabilmente, è tutto così indefinito. Allora, Franz Hogenberg invece, che era incisore, che racconta il Civitatis Orbis Terrarum, vediamo prima questo, che lavora anche per l'altro volume Civitatis Orbis Terrarum, vediamo cosa c'è qua, cartografo, ecco qua, alcune immagini che lui fa. Ecco qua, ecco, queste sono recupero di contenuto, dove ad esempio è anche un incisore tradizionale, diciamo così, questo ritratto di un principe, bambino, penso, abbastanza tradizionale, però ci sono delle visioni insieme, come questa, la pace di Anversa, la dichiarazione della pace di Anversa, il file originale, sempre questo, scusate la carica, quindi ha un certo gusto per la descrizione di insieme delle scene, dei paesaggi. Questo qua, cattura di Valenciennes, quindi deve essere la descrizione di qualche campagna di guerra, e anche questa è topografica, diciamo. E poi ci sono le immagini della Civitatis Orbis Terrarum, che dovrebbero essere queste. Queste sono scene di battaglia. Vediamo la tecnica se si riesce a capire. Ma sembrava un po' forte. Sembra chiaramente un po' forte. Allora. Vediamo. Ma vediamo questa, la cattura di Terzo del principe Maurizio. 1591. Descrizione della cattura di Derby di Maurizio di Nassau, 1 luglio 1591. L'assalto non è mai veramente avvenuto, ma la città si era arresa senza combattere. Poligrafia Aurait Belgica, evidentemente delle stampe sulla guerra delle Fiandre. Eh sì, anche qui c'è topografia del posto e in questo caso descrizione della battaglia, o almeno non è mai avvenuto, però evidentemente l'incisore si era messo avanti. Ecco qua, la battaglia di Unkel 1583, sempre la serie della guerra delle Fiandre. Qui si vede un po' meglio il busto di Hogenberg tra il paesaggio e la geografia, perché indica la struttura della città, le strade, il fiume, tutta una serie di cose molto molto precise. E poi Civitatis Orbis Terrarum, che sono queste barze di Pomerania. Vediamo nello splendore dei quattro mondi. Ecco qua, sì, questo è tipico di queste, del Civitatis Orbis Terrarum di Hogenberg, come è fatto come struttura. Lui fa delle piante a volte che sembrano quasi appunto mappe topografiche viste dall'alto, però sempre in scorcio, abbastanza precise come struttura, e poi in primo piano mette delle scenette, dei paesaggi, delle scenette di genere, come appunto se fossero dei paesaggi, che in qualche modo vorrebbero indicare il costume dei personaggi, cioè dei contadini della Pomerania, del ceto. Qui sono tre coppie, potrebbero essere gli aristocratici, i borghesi, il ceto dei borghesi o dei mercanti, che è molto diverso, e i contadini. E in questo ha una sorta di descrizione questa volta degli usi e dei costumi. E poi si mette anche queste cose, e questa è acqua forte però acquerellata. Acquerellata mano, sì. E queste si trovano, anche queste purtroppo squadernate. Questa è un'altra edizione, un'altra versione che è acquerellata anche questa, sempre la stessa, però con una colorazione diversa. Poi ancora, sempre le battaglie di... Ecco anche questa, Strasburgo. Come? Strasburgo, sì. In Germania. No, adesso credo che sia in Francia, però al confine con la Germania. Sì, molte di queste città ancora esistono, anche Delft, anche quella che abbiamo visto prima, Bart, non so come si chiama, Strasburgo, sì. E queste stampe sono interessanti perché ci fanno vedere la città com'era in un modo abbastanza preciso, com'era appunto nel 1580. C'è la stemma imperiale, quindi una città imperiale, la stemma della città. Queste è più carta geografica, più mappa moderna, perché indica i canali, le strade, però è sempre vista non verticale, è vista con veduta aerea praticamente, quella che si chiama la prospettiva aerea. Questa c'è. Sì, infatti, a seguire tutte le posizioni. Ma anch'io piano piano sto scivolando, non so perché l'hanno ricomperata, però volte se non solo quelle rosse che si stavano. Ma qua c'è un barco della sedia di tela? Sì, di tela sì. Sì, ma le abbiamo portate, ecco vedete, qui si vede più in definizione. Chiaramente queste, qui probabilmente c'era un magazzino, c'era un fondaco, c'erano qui dei depositi lungo il fiume, questo è un palazzo che aveva probabilmente davanti una fontana, questa è la piazza del mercato, però la cattedrale di Strasburgo, però non è sicuro che qui ci fossero veramente quattro case dall'altra parte altrettanto, insomma un limite di approssimazione c'è, ci dà comunque un'idea complessiva di come poteva essere la città in quell'epoca. C'è un'incisione molto famosa di questo tipo, che adesso finiamo qua, torniamo indietro, quella di Jacopo de Barbari del 1500 di Venezia, che è simile a questa, ecco qua. Un'altra città, queste sempre le città che sono disperate. Forza. I nomini di questi libri sono è in latino, questa è Ein Name von Neuss, Neuss, la città di Neuss, che adesso non so come si chiama, anche qui la battaglia, forse questa sarà la serie della guerra delle fiamme, no, ce n'è un'altra che ho visto, un'altra che ho visto, questa Halle, fammi vedere. Se abbiamo lo scambio Erasmus con Halle, quindi me la devo guardare. Ah, ecco, questa, ecco l'altro tipo di incisioni paesaggistiche che fa sia Hockenberg ma anche Mottiato, quelle sono appunto le città viste di profilo, specie le città di mare, come diciamo prima, per viaggiatori, gli esploratori fanno queste viste da lontano col cannocchiale come se per farle vedere come sono diciamo arrivando in città. Dunque Halle, la chiesa questa qui c'è ancora, questo palazzo Ah, è quello dove c'è il museo d'arte, sì, c'è ancora un po' rovinato, un po' smandrappato. Sì. Qui si vede un fiume, il nome del fiume Sale. E poi ancora sto guardando. Marsiglia, Magno. Mosca, questa mosca, che non è così, questo è il Cremlino. Questa è l'attuale piazza russa con la cattedrale, non è così impossibile. Chiaramente non è che hanno visitato tutti questi paesi, hanno raccolto sia informazioni dirette, chiaramente le città come Strasburgo, le città olandesi delle Fiandre sono più facilmente, avevano più materiali, anche disegni, anche stampe di altri incisori, di altri cartografi su cui lavorare. Per altri posti, come potrebbe essere appunto la Russia, le descrizioni sono un po' più approssimative. Anche le di Marco Polo. Sì, ma no, anche i viaggiatori che sono andati lì, anche con schemi, con disegni, ma qui si vede che è chiaramente un po' più approssimativa di Strasburgo, dove invece sono disegnati con cura i fiumi, i canali, i ponti. Però qui la Piazza Rossa la possiamo comunque riconoscere, questa zona qui di Mosca è ancora quella, insomma. C'era un'altra immagine, partiamo da là. Questa è stupenda. Perché c'è Mantova, i tre laghi, il Miccio, come ci sono ancora adesso, il ponte, come questo è il Borgo San Giorgio, dove, come si vede anche nella dipinto di Mantegna, e questo, adesso questi due ponti non ci sono più, ce n'è un altro qui, e poi tutta la pianura padana con gli Alpi, questo qui è la zona dove ci sarebbe stato costruito Palazzo Te. Anche questo lago superiore e inferiore ci sono ancora, questa zona qui è stata bonificata, c'è la stazione ferroviaria, questo cosa. Questo piccolo porto c'è ancora, questo no, è diventata piazza Virgilio, questa è diventata una piazza, questo invece c'è ancora. Chiaramente qui aveva a disposizione delle indicazioni, dei disegni più precisi che non per mostra, ovviamente. Benissimo, vi metterò un sacco di belle immagini, queste mostre in Germania. Alcune sono anche molto diverse come stile, probabilmente sono state fatte chiaramente da diversi disegnatori che poi lui ha inciso o inciso la sua bottega, fatto messo insieme. Questo chiaramente è un ottimo disegnatore che ha messo insieme tantissimi dati. Salve. Guarda se quella fosse. No. Cerca. Perché? No. Potrebbe averla messa via la signora. Qui non c'è. Grazie. Qui vediamo. Monastero, mostra, città nella Media Vestfalia. Dal nome celeberrimo, con dignità di chiesa metropolitana episcopale, citata da Albert Kranz nel suo libro della Sassonia, secondo volume, capitolo 16, qualche cosa. Anche richiamo bibliografico. Beh, questo è un paesaggista vero e proprio, questo qua non è un disegnatore. E questo, sì, e questo è uno dei libri molto, che ebbe una grandissima diffusione, una grandissima fama. Anche quella di Mantova era diverso, ma altrettanto interessante. Ecco qua, questa è la pianta dell'Ortelius, invece, la pianta geografica. Sempre incisa da Hohenberg. Questa è la cartina dove c'è Münster, la stessa città di prima. Allora, una di queste prime vedute a volo d'uccello di prospettiva aerea ce l'abbiamo con Jacopo de Barbari nel 1500, adesso guardiamo un attimo, vediamo questa, ecco Münster, questa qua, la città che abbiamo visto prima, e questa è la contea, il territorio di questa contea, questa città. Allora, Jacopo de Barbari, andiamo a vedere, Jacopo de Barbari. Sì. Jacopo de Barbari. Eccole qua, immagini di Venezia. Eccola qua. Questa è una delle prime mappe moderne xilografie datata 1500 Venezia MD, cioè 1500, firmata dal caduceo, dal simbolo di Jacopo de Barbari da qualche parte, che era uno xilografo e pittore, xilografo e calcografo, che ha una forte legame con Dürer. Lo stile del bulino di Jacopo de Barbari è chiaramente derivato da quello di Dürer. Dürer era stato a Venezia pochi anni prima, negli ultimi anni del 400, 1496-97, e quindi evidentemente ha influenzato anche Jacopo de Barbari, perché Venezia già alla fine del 400 è il centro più importante per la stampa e il commercio dei libri in Italia, e quindi ci sono moltissimi stampatori e moltissimi anche incisori. La vediamo un po' più da vicino, e anche questa stampa, dal punto di vista storico, della storia della città, dei monumenti, delle chiese, dei palazzi che adesso non ci sono più, è fondamentale proprio come un documento. E vedete, è proprio un tipo di struttura che poi dopo continuerà ad essere utilizzato nel 600, nel 500 e nel 600 olandese dai cartografi. Ecco qua. È anche molto bella, devo dire. Questo è l'arsenale, il famoso arsenale di Venezia, che era segretissimo perché era il centro, diciamo, della potenza marittima veneziana contro i turchi. Quindi probabilmente qui ci sono un po' di semplificazioni di fantasia, insomma, molte per evitare che i turchi contassero quanti arsenali, quanti scali, quante navi potessero costruire contemporaneamente. Ecco, questa è Piazza San Marco col Palazzo Ducale. Ops, scusate. Il canale della Giudecca pieno di navi, la dogana, il canal grande, uno storico della città di Venezia, o un veneziano che conosce le storie dell'architettura di Venezia, vi saprebbe dire con precisione: questa chiesa c'è ancora, questa non c'è, questa l'hanno trasformata. Questo è il ponte del Rialto vecchio, quello in legno, col ponte levatoio in mezzo, quello che è stato, dopo pochi anni, sarebbe stato sostituito da quello in pietra, e che c'è anche nel dipinto di Vittore Carpaccio. C'è un dipinto di un miracolo in una processione a Venezia con lo sfondo il ponte del Rialto. Piazza San Marco, riconoscibilissima. Qui non ci sono le procuratie nuove, dove c'è la biblioteca marciana, quella di San Sovino, non ci sono ancora. Questo ponte c'era già, c'è ancora. Tutta la riva degli Schiavoni, un po' diversa da quella di oggi. Questo appunto è un documento eccezionale, realizzata appunto in xilografia, sei blocchi di xilografici. È assolutamente affascinante. E poi c'è tutta l'isola della Giudecca, l'isola di San Giorgio con la chiesa. No, questa è l'isola di San Giorgio, questa è l'isola di San, non mi ricordo, dove adesso c'è la Guardia di Finanza, e questa è la Giudecca, che allora era molto meno abitata di adesso, nel 500. Ci sono ancora giardini, orti e così via, mentre adesso ovviamente è tutta costruita. Successivamente nel 6-700 è stata costruita di più, però sì, è assolutamente affascinante queste immagini, queste casette con gli orti, le siepi, le gondole che vanno e che vengono, è eccezionale. Ok, allora, altra cartografia. Vediamo un po', questo è sempre Hogenberg, niente. Andiamo a vedere qui. Ah, guardiamo l'ultima, una passata qui della Civitates Urbis Terrarum. Ah, queste dell'Università di Heidelberg sono interessanti. Ci ho scaricato il libro di storia. No, Cesare Ripa, l'iconologia di Cesare Ripa, si può scaricare, e sono illustrati a colori, si possono liberamente scaricare e sono molto, molto interessanti. Si può anche andare sul sito a cercare i libri che hanno scansionato. Niente, non lo scarichiamo perché se ci mette mezz'ora ci fa perdere solo del tempo. Allora, vediamo un attimo, cartografia, l'ultima cosa. Cartografia nautica. Cartografia nautica, vediamo. Seicento olandese, eccolo qua. Ecco, questo qui lo possiamo vedere. Petrus Planchus, eccolo qua. 1640. Bleu, che è un altro tipo tipografo olandese, che ha fatto i portolani, che sono questi. Portolani, eccoli qua, portolani. Portolano, portolano. No, non va bene. Vediamo un po'. Petrus Planchus, cartografo olandese del 500. Vediamo che cosa hanno fatto vedere. Ecco qua. Ecco qua. Che è molto simile allo stile di Hogenberg. Sempre è un altro esempio delle carte. Questa era per uso dei marinai, perché Planchus lavorava per la Compagnia delle Indie olandesi, quindi per gli esploratori, le navi che commerciavano in spezie, e qui non a caso ci sono la noce moscata, e diverse essenze che venivano vendute come spezie. Quindi. Questo è molto diverso perché non ha quella specie di proiezione che avevamo visto prima, ma la carta, questa sorta di carta delle distanze, di linee che dovevano servire a calcolare le distanze. Perché non si apre? Forse si è fatto una griglia sotto con diversi punti di riferimento. Sì, per calcolare. Ce ne tre praticamente. Quattro. Qui? Anche di più. No, di più, c'è una sorta, vedi, qua intorno, 1, 2, 3, 4, c'è una sorta di corona qui intorno che doveva più o meno servire a calcolare la direzione tra l'est, tra i punti cardinali, dove si doveva dirigere per andare, che so, da quest'isola a quest'isola. Bisogna partire e dirigersi, che so io, a nord-est di una certa, secondo una certa inclinazione. Era un sistema molto, molto empirico, per cui... Però qui si vede bene, anche qui, è più o meno degli stessi anni dell'immagine del Pacifico di Hogenberg e si capisce bene lo stato dell'esplorazione di questa zona da parte degli olandesi. Qui c'è la zona del Vietnam, questa è le Filippine, il Borneo, sono abbastanza riconoscibili. L'isola di Formosa qui c'è finalmente. Ma questi pesciani che ogni tanto spuntano fuori saranno qualche... No, puramente decorativi, come pure queste navicelle che vanno. Qui sono più precisi le descrizioni della... questo è il Vietnam, ecco, questo è il Vietnam. Questa è la zona della Thailandia, della Birmania, il Borneo, Formosa, l'isola di Hainan. È più preciso. Evidentemente le descrizioni, i dati anche proprio cartografici delle isole, le distanze, sono più chiare perché evidentemente qui erano ormai diversi anni che le navi della Compagnia delle Indie viaggiavano Giava, sì, l'isola di Giava, viaggiavano continuamente intorno in queste regioni. E in effetti in quell'epoca gli olandesi arrivano in Giappone, aprono, sono gli unici occidentali ad avere la possibilità di tenere aperto un emporio stabilmente in Giappone, a Nagasaki, arrivano appunto in Cina, arrivano a Formosa, ci sono tutta una serie di scambi che cominciano a intensificarsi e qui è più preciso anche i nomi, Xi'an, Guangxi, si capisce che sono regioni che sono state visitate o dove ci sono degli scali, ci sono dei contatti commerciali. Però anche qui questa è più perpendicolare in senso moderno, però c'è ancora appunto l'elemento descrittivo del paesaggio, c'è sempre con queste navi, questi pesci. Invece la primissima carta Nova Doetecum, vediamo questa cartina qui, non ho capito che posto è. Ah, Nuova Francia o Terra Nova? Ah no, questo è l'Atlantico settentrionale invece. La Groenlandia, l'Islanda e l'Atlantico settentrionale. Invece la prima, tanto per fare una digressione che non c'entra con la storia della gara, la prima mappa azimutale fatta con le misure prese con, come si dice, il teodolite, con le misurazioni ottiche, allora non c'era il teodolite, ma la cosiddetta tavoletta romana, quindi misurando le distanze in modo ottico e disegnata in verticale, topograficamente in verticale, è la mappa di Imola del solito inevitabile Leonardo da Vinci, che adesso lo troviamo, che è della fine del 400. Queste sono riconoscibili, questa è l'Islanda, questo non si capisce che cos'è, Friesland, ma non esiste quest'isola, Stretto di Davis, Circolo Polare Artico, Labrador, questa è la Nuova Francia, cioè il Quebec. Questa è l'isola di San New Brunswick, si chiama adesso. Sì. Questo è il Canada, una delle prime immagini del Canada. Allora, Leonardo Mappa d'Imola. Vediamo un attimo. Come si fa ad avere un'altra? Ah, qui, più. Questo qua più. Immagine. Forza, allora. Mappa di Imola, vai. Eccola qua. Questo fa un po' schifo. No, questo si può fare. Ha preso un punto centrale la piazza e ha misurato geometricamente le distanze e ha fatto tutta la costruzione seguendo le distanze. E questa subito si capisce che è molto più moderna come impostazione, ma non è stata seguita immediatamente. Ma come grafica anche, cioè, non sembra una mappa del 1490. Sembra una prodotta contemporanea. Sì, ma vabbè, Leonardo aveva queste trovate. Sì, questa qua. Vediamo un attimo se la troviamo un po' più grande. Per esempio questa del 1700 sì, ecco, no, questa è già moderna anche questa, sì. Dove è finita la mappa di Imola? Dove l'hanno messa? Sì, figurati se non ci mettevano. Ah, eccola qua. 1502. Beh sì, è molto moderna, infatti. E per noi appare molto più leggibile, perché siamo abituati a questo tipo di interpretazione dello spazio, piuttosto che i paesaggi, le cose viste in prospettiva aerea. Ok, questo... per quanto riguarda la cartografia, e metterò anche degli altri materiali sul file, sul PowerPoint. Adesso volevo parlarvi anche di un'altra cosa del Settecento, riprendendo il discorso dell'illustrazione scientifica sei-settecentesca. C'è un momento dove il libro illustrato nel Settecento ha un grandissimo sviluppo. Vi volevo fare un esempio, altri esempi da questo allora ripartiamo. Altro argomento. Ops, sono già le 4:30. Facciamo ancora 10 minuti? Siamo andati. Sì, recuperiamo un po' fino alle 5. Vedo già questa. Ecco qua, questo qua. Lo vediamo meglio qui. Forza, bello. Adesso lo vediamo insieme a un'altra cosa. Il discorso dell'illustrazione, del rapporto libro e immagine nel 6-700. Ad esempio, nel 600, per esempio, insieme ai libri scientifici, viene sviluppato il periodico, nasce il giornale nel corso del 600, non come lo conosciamo noi adesso. Sì, scusa, chiudi pure che. Non come lo conosciamo noi, però è il primo momento in cui viene evidenziata questa esigenza di far girare le notizie, no? I mercanti, i commercianti, le corti, le notizie giravano, ma così di bocca in bocca, non c'era una struttura di informazione. E i viaggiatori, appunto, a volte scrivevano libri, trattati con le notizie di paesi che avevano scoperto, le carte geografiche, le mappe. Però le notizie così quotidiane degli avvenimenti, delle guerre, arrivavano con molto ritardo. Piano piano, nel corso del 600, cominciano a diffondersi degli stampati, dei foglietti, di, a volte anche di poche pagine, nelle città mercantili, nelle corti. Quindi anche qui, essendo un tipo di pubblicazione molto utilitaristica, molto anche effimera, non ci sono grandi testimonianze. Una di queste, la prima pubblicazione di notizie, è questo foglio che si chiamava appunto La Gazette, scritta da questo dotto medico del re Théophraste Renaudot per il cardinal Richelieu. Erano piccole foglietti con notizie sui sovrani, sulle corti, le feste, quindi non erano il giornalismo che abbiamo oggi, era molto distante. Ci sono anche a Torino i Successi del Mondo, il giornale di Torino fino poi nel 1780, quindi un po' tutte le piccole corti italiane a Parma, Modena, Mantova, hanno questo... sì. E ben presto anche queste gazzette, questa è la London Gazette con l'incendio di Londra del 1666, in Italia il primo periodico di cui si ha notizia, il primo giornale se vogliamo, è la Gazzetta di Mantova nel 1664, anche se la Gazzetta di Parma ha questa... primato, almeno rivendica questo primato, di essere il giornale più antico in Italia, forse nel mondo, perché esce ininterrottamente, che poi non è vero, ci sono state delle piccole interruzioni, dal 19 aprile 1735. Così, mentre la Gazzetta di Mantova, che c'è ancora, che è stata ripubblicata dopo i diversi periodi di interruzione, dice il giornale fondato nel 1664, se voi comprate la Gazzetta di Parma c'è scritto anno 245esimo numero 280, anno 285esimo numero 25, che sono 3 febbraio 3 aprile 2014. Allora, London Gazette, la cosa interessante è che questi giornali ben presto si specializzano. Ci sono i giornali di informazione che appunto danno notizie delle corti, danno notizie delle guerre, degli avvenimenti come appunto questo, il grande incendio di Londra, così via, e poi si specializzano i giornali letterari, e i giornali scientifici. Il Journal des Savants è il primo che appare in Francia, e ben presto sono anche questi accompagnati da illustrazioni. La cosa più importante, il testo però più importante nel Settecento, parallelo a questa evoluzione delle illustrazioni scientifiche e delle notizie anche sul mondo, è la Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts, des messi et des métiers. L'idea moderna, molto laica, di una conoscenza settoriale molto specifica, non solamente sulla filosofia, sulla letteratura, sulla scienza intesa in senso tradizionale, la medicina, la teologia, insomma il diritto, la cultura tradizionale, ma una cultura nuova nata appunto dai commerci, dai viaggi, dalle esplorazioni, dal nascere dell'industria, la cultura delle arti e dei mestieri. Quindi è un sapere scientifico ma che guarda anche molto la produzione degli oggetti, l'economia, quindi anche un mondo borghese, diciamo così, cioè non è più la grande cultura dei sapienti dell'università, ma è proprio una cultura anche pratica. Ed è interessantissimo perché l'enciclopedia è composta da 17 volumi che sono stati pubblicati in diverse edizioni in tanti anni, dal 1751 fino al 1772, poi ci sono state anche diverse altre edizioni. Questo è il frontespizio, questa è la tipica impaginazione settecentesca, con un frontespizio che molto spesso ha una vignetta incisa all'acquaforte. E poi c'è anche l'antiporta di Nicolas Cochin, Charles Nicolas Cochin, che è un pittore, un incisore, Prevost, che incide questo disegno di Cochin. La verità, com'è che si intitola? Aspetta, la verità svelata dalla filosofia e dalla ragione. Al colpetto qui ci sono le muse, le nove muse, quindi le arti tradizionali, e le nuove scienze, quindi tutte quante queste figure allegoriche indicano che la navigazione, il commercio, l'agricoltura, la chimica, la botanica, la zoologia, vedete c'è questa figura che tiene un microscopio, cioè c'è tutta un'indicazione chiaramente laica, tipo questo è il capolavoro della scienza, della filosofia illuminista. La verità, quindi la verità razionale svelata dalla ragione, la verità scientifica, quindi questo è un manifesto antireligioso, antiteologico, quindi la verità che in qualche modo si può conoscere attraverso le muse, attraverso la cultura, ma anche attraverso le scienze, e la si può applicare per appunto conoscere meglio la natura, ma anche per migliorare la vita degli uomini. La cosa interessante è che l'enciclopédie, oltretutto è enciclopédie, è una parola che vorrebbe essere greca, che deriva da kyklos, la parola greca che indica il ciclo, ha quest'idea geniale di sistematizzare la scienza in ordine alfabetico, quindi non c'è una gerarchia di cose più importanti o meno importanti, ci sono i nomi, quindi agricoltura, arte, si parte dalla A e si finisce alla Z. E anche qui c'è una sorta di azzeramento della gerarchia delle scienze o delle arti più importanti, delle arti meccaniche, delle arti più filosofiche. Qui c'è l'azzeramento e c'è una costruzione razionale del sapere attraverso l'ordine alfabetico delle lettere. Poi chiaramente ci sono dei saggi molto più lunghi, molto più corti, alcuni più illustrati ad altri meno. Dunque, ci sono poi 11 volumi, non essendoci questo problema delle tavole all'acquaforte e del impostare il testo rispetto alle illustrazioni, ci sono 17 volumi di testo, 17 e 11 volumi di tavole che si riferiscono alle voci del testo, accompagnate da delle pagine esplicative delle note, dei numeri. E quindi l'enciclopedia è interessantissima da questo punto di vista, perché ci illustra la tecnologia della scienza, dell'industria, dell'artigianato della metà del Settecento. Questa è una stampa, un torchio calcografico, ma ci sono gli strumenti del calzolaio, gli strumenti del bottaio, gli strumenti per costruire le barche, oppure le navi, la descrizione di tutti gli attrezzi, diciamo, di una nave, i carri, i mezzi di trasporto, l'abbigliamento, ma anche c'è la voce arte, quindi c'è l'anatomia artistica, l'anatomia medica, diciamo, vera e propria, l'abbigliamento, quindi gli strumenti per tessere, quindi tutte le macchine tessili, il ricamo, la moda, veramente ci sono queste tavole che sono famosissime ed è uno dei capolavori dal punto di vista della unione dell'immagine rispetto al testo, così come i testi sono stati affidati a decine di esperti, quindi per ogni scienza si è andato a cercare dei medici per la medicina, degli architetti per l'architettura, dei filosofi che so per l'estetica piuttosto che per le immagini, ecco, Diderot, arte, la redatta Diderot, gusto divisa in sette parti, Voltaire, Montesquieu e D'Alembert. Così anche le tavole sono opera di diversi incisori. Questa ad esempio è anatomia, c'è questa tavola anatomica molto simile a quella che abbiamo visto di Vesalio di due secoli prima. L'immagine anatomica è sempre ancora molto bifronte, cioè può servire sia all'artista che al medico, e quindi molto spesso ci sono queste incisioni messe in posa dove il nudo o lo scorticato o lo scheletro o anche il preparato anatomico con i muscoli, con le vene in evidenza sono messi in posa come delle statue. E poi ci sono altre cose, ad esempio queste, i teatri, quindi tutti gli attrezzi per il teatro, e questo è il vecchio Teatro Regio di Torino, quello che è bruciato durante la guerra e che adesso è stato ricostruito, per dire. Anche qui è una fonte incredibile di notizie. In più crea proprio un tipo nuovo di pubblicazione, che è questa dell'enciclopedia illustrata, che è durata fino ad adesso, insomma, ormai le enciclopedie non si fanno più perché la nuova enciclopedia sono queste online tipo Wikipedia, sono i social network dove puoi trovare di tutto, insomma su Facebook puoi trovare il sito, l'indirizzo dell'artista che ti mette dentro le cose, del grafico, del designer, dello scienziato che mette dentro le sue scoperte, ci sono i blog specializzati in un argomento piuttosto che un altro, ma iper specializzati dove puoi trovare tutte le informazioni. Quindi l'enciclopedia vera e propria sta finendo, così come è cominciata nel 1752, sta finendo in questi anni. È recente la notizia che l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana, che ha fatto l'enciclopedia Treccani, che ha fatto l'enciclopedia dell'arte classica, quindi ha fatto tutta una serie di enciclopedie che sono comunque anche quelle delle sintesi fondamentali sulla cultura del Novecento in Italia, ha smesso le pubblicazioni dell'enciclopedia cartacee, per cui tutti i dati si trovano online, anche se non ci sono le immagini, insomma ci sono un po' di dati, il dizionario biografico degli italiani, tutti questi libri, e si dedicherà solo a pubblicazioni d'arte, di strenni, delle cose del genere. Però è proprio un segnale, direi molto triste, ma indicativo di questa tendenza, che appunto dopo due secoli e mezzo l'idea dell'enciclopedia, che è stata ripresa ovviamente in tutti i paesi, ci sono questa idea del volume illustrato, sia tecnico che anche divulgativo, dove comunque le voci sono corredate da immagini, comunque sia c'è la necessità di immagini che illustrino le voci, specialmente nelle voci più specialistiche, più tecniche, più scientifiche, dove magari il lettore comune non si orienta, ha bisogno di capire come sono fatte certe molecole chimiche piuttosto che certi macchinari di un certo tipo. E questo nasce da questo cantiere, diciamo, da questa redazione di diversi filosofi che realizzano quest'opera di conoscenza laica, diciamo, e poi soprattutto destinata non agli specialisti ma comunque a un pubblico molto più ampio, chiaramente sempre riservato, perché il costo di questa di questa enciclopedia era alto, sì, poi dopo è stato diffusa con lentamente, perché in molti paesi era stata messa all'indice, era vietata in molti paesi cattolici, in Italia, lo stato della Chiesa, in Spagna non poteva essere distribuita, era venduta, diciamo, non dico clandestinamente, però non poteva essere distribuita apertamente, perché si era capito immediatamente che questo tipo di pubblicazione era comunque un colpo portato a una struttura della conoscenza tradizionale, comunque dominato da, appunto, dalla teologia, dai dogmi cristiani, dai dogmi della Chiesa Cattolica, insomma, era una cosa che portava l'ambito della conoscenza fuori del controllo tradizionale, e quindi molti regni l'avevano vietata per un certo tempo. Poi dopo è stata copiata e è stata imitata poi in tutto nell'Ottocento, nel Novecento, in tutti i paesi. E anche questo fa parte, diciamo, è un'evoluzione del filone scientifico, diciamo, della divulgazione dell'immagine, ed è un grande capolavoro, perché molte di queste immagini sono comunque belle, comunque piacevoli, comunque leggibili e anche eseguite con una grande cura dal punto di vista grafico. Poi ovviamente in questo caso oramai siamo nel Settecento, quindi si usano delle lastre anche grandi, o in ferro zincato, o in questo caso credo che fossero in rame comunque, però anche di grande dimensione, perché il libro è in foglio, quindi le enciclopedie sono dei volumi così, quindi le tavole sono abbastanza grandi, però è un'epoca in cui già si cominciano a produrre delle lastre di rame, non dico industrialmente, però meccanicamente, quindi con dei rulli, con delle presse, per cui c'è anche una produzione delle lastre di rame è molto regolare, si possono usare anche delle lastre più grandi, mentre invece prima erano battute a mano, quindi avevano comunque un limite anche proprio di costruzione. E quindi niente, a questo punto sono le 5 e chiudiamo questa digressione un po' zigzaganti sulla grafica e sulla scienza. Allora, vi preparo il PowerPoint con le immagini che abbiamo visto la volta scorsa, e poi dopo continuo a mettere insieme i materiali su questo fascicolo, che diventerà la